Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è il meglio di Nessun Luogo è Lontano. In quest'ultimo appuntamento speciale del weekend vi riproponiamo una puntata tutta dedicata al patrimonio culturale delle zone di crisi del mondo. Ogni anno guerre e scontri armati mettono in pericolo gran parte dei beni archeologici, monumentali e artistici e anche naturali del pianeta, che costituiscono essi stessi la memoria e l'identità dei popoli. Di questo abbiamo parlato con Cristina Menegazzi dell'UNESCO, che si occupa della salvaguardia del patrimonio culturale in Siria. Cristina Menegazzi, buongiorno. Buongiorno. Cristina Menegazzi dell'UNESCO è di base a Beirut, ma si occupa proprio della salvaguardia del patrimonio culturale siriano, che da oltre 2 anni e mezzo è messo a repentaglio dalla violenta crisi che sta attraversando il paese. Cristina Menegazzi, innanzitutto riusciamo a dare un contorno a quella che è il pericolo che sta colpendo ormai da parecchio tempo il patrimonio culturale siriano? Intanto è tutto il patrimonio culturale che è siriano che è in pericolo, patrimonio che possiamo definire archeologico, monumentale, ma anche le collezioni dei musei, le collezioni che si trovano direttamente sui siti archeologici, ma anche le biblioteche, gli archivi, le documentazioni video, eccetera, e in più anche tutto il patrimonio immateriale, quindi tutte le tradizioni, poesie, musiche, manifestazioni di danze, eccetera. Quindi il patrimonio siriano è in pericolo nelle tutte le sue forme. Ecco, quindi non si parla solamente di siti archeologici o di monumenti. Certo, fra l'altro lei fa bene a sottolineare quest'ultimo aspetto, perché è quello che, diciamo, forse socialmente è più impattante nel momento in cui intere generazioni vengono colpite per gli anni a venire da questo conflitto, bambini che vengono segnati, giovani che smettono di studiare, eccetera, eccetera. Per cui la guerra, ahinoi, dispiega i suoi effetti in maniera orrorifica anche nei tempi a venire. Il vostro programma di emergenza esattamente come funziona? Quanto è difficile per voi tentare la salvaguardia in un paese rispetto al quale molte le zone immagino siano inaccessibili per voi? Sì. Intanto il progetto è stato lanciato all'inizio di marzo quest'anno, nel 2014, ed è finanziato dall'Unione Europea principalmente e in parte anche dal governo delle Fiandre in Belgio. E, fino a 2 settimane fa il progetto era basato a Parigi, perché abbiamo organizzato una grossa riunione di esperti in fine maggio, in cui appunto abbiamo voluto invitare siriani in Siria, siriani fuori della Siria, quindi specialisti che sono espatriati, che sono rifugiati in altri paesi, ma anche altri esperti internazionali, colleghi, eccetera, per riflettere insieme su che cosa si può fare in una situazione di conflitto. Il progetto durerà 3 anni e si spera che il progetto, che appunto prevede una parte di indagine sulla situazione effettiva di quali sono i danni su tutto il patrimonio, come dicevo prima, quindi non solo quello monumentale, dopodiché un lavoro sull'inventario di quello che esiste e di quello che esisteva prima dei danni, di quello che esiste adesso dopo i danni, perché ovviamente è importante sapere quello che c'è, quello che esiste, perché se no non si può sapere nemmeno quello che si perde, quindi questo è un concetto molto importante: inventoriare, documentare questo patrimonio. E come potete immaginare, in una situazione di conflitto, in una situazione di guerra, dove ci sono ben altri bisogni fondamentali, primari, pensare che del personale stia nei musei, sui siti archeologici, nei monumenti, negli archivi, a occuparsi della documentazione di questo patrimonio per evitare appunto la perdita, è una cosa che dobbiamo veramente tutti pensare come uno sforzo veramente sovrumano. Sì. Allora, il patrimonio siriano in questo momento appunto è in pericolo perché comunque c'è confusione sul territorio. Adesso non entro in questioni né di ordine politico né di ordine di nessun genere, ma sappiamo benissimo che il territorio è sotto vari controlli, governo, opposizioni, eccetera. Quindi abbiamo a che fare con colleghi, specialisti, esperti che sono sotto varie testate, se si così può dire, e quindi è ancora più complicato. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Ben ritrovati, questo è il meglio di Nessun luogo è lontano. Continua la puntata speciale dedicata al patrimonio culturale delle zone di crisi del mondo, quello messo in pericolo dalle guerre o dai conflitti. Cristina Menegazzi dell'UNESCO è di base a Beirut, ma si occupa proprio della salvaguardia del patrimonio culturale siriano, che da oltre 2 anni e mezzo è messo a repentaglio dalla violenta crisi che sta attraversando il paese, di fronte a una crisi anche umanitaria, no, delle proporzioni di quella siriana. Che tipo di impatto sperate di avere con la vostra attività e con la vostra campagna sulla conservazione dei beni? Non avete un rischio di sottovalutazione? Chiaramente nel breve periodo, no? Perché si dice, beh, la cosa fondamentale è, attenzione, pensiamo ai morti, ai feriti, a ricostruire il paese, a sedare il conflitto, e voi però siete lì che eroicamente vi occupate, no, di reperti archeologici e di patrimonio culturale e quant'altro. Incontrate delle resistenze nel svolgere questo lavoro? Allora, intanto gli eroi non siamo noi, ma sono i siriani che sono sul posto, i siriani che sono fuori dalla Siria e fa bene a precisarlo. Continuano a preoccuparsi per il proprio patrimonio. Sì. Noi cerchiamo di dare tutto l'aiuto che possiamo, di metterli in contatto con altri colleghi, eccetera. Quello che si può fare è comunque, come dicevo prima, documentare al massimo, raccogliere le informazioni di quello che era il patrimonio culturale siriano prima dell'inizio del conflitto e di volta in volta documentare i danni che sono stati causati negli ultimi anni, negli ultimi mesi, perché poi bisogna pensare anche a una fase di recupero, una fase poi di ricostruzione, e bisogna cercare di evitare quello che è stato fatto già in altri paesi che hanno subito la guerra, come il Libano, appunto, per esempio Beirut, dove ci sono state delle ricostruzioni molto selvagge, sì, senza appunto tenere presente di tutte le parti storiche, nonostante ci fossero molte documentazioni a disposizione. Per cui, ecco, stiamo cercando di in qualche modo aiutare a essere pronti nella fase poi di recupero e di minimizzare al massimo i danni. Chiarissimo. Appunto, quindi con delle azioni di protezione, come per esempio tutto quello che è materiale e patrimonio mobile, evacuarlo dalle loro sedi, quindi dagli archivi, dalle biblioteche, dai musei, togliere tutto i beni mobili e poi metterli in sedi più sicure, oppure rinforzare alcune protezioni in tutte le parti invece monumentali che non possono essere spostate, per esempio rinforzare sul terreno dei siti archeologici i guardiani, anche se sappiamo che in alcune zone purtroppo c'è un abbandono totale, perché non c'è più il controllo nemmeno del governo che pagava i guardiani. L'opposizione in alcuni casi riesce a far fronte a questa situazione e a pagare delle guardie appunto per proteggere il patrimonio, ma insomma non è sempre possibile. Ecco, dottoressa Menegazzi, la interrompo già che lei citava la situazione sul terreno della Siria, che è estremamente complessa, molto fluida, vari gruppi armati sul terreno, oltre alle forze governative. Ci sono zone con le quali è più difficile dialogare, e lungi da me, come dire, dare connotati politici o di qualsiasi altro tipo alla domanda, e mi rendo conto che se la domanda dovesse essere, come dire, sensibile, mi aspetto anche un no comment da parte sua. Però, diciamo, avete interlocutori con i quali è più facile dialogare su questi temi? Guardi, ritengo che l'UNESCO è riuscito, con questa riunione che è stata organizzata fine maggio, a trovare una strada di conciliazione, se non altro, fra il personale del patrimonio, il personale del patrimonio. A questa conferenza, a questa riunione di esperti, di colleghi, abbiamo invitato rappresentanti del governo, ma anche rappresentanti dell'opposizione. Li abbiamo messi sullo stesso podio, hanno parlato insieme. Con ognuno di loro abbiamo comunque avuto uno scambio prima della conferenza, spiegando appunto che il bene siriano, il patrimonio siriano è un patrimonio di tutti e che quindi bisogna in una sede come quella dell'UNESCO, diciamo sotto il cappello unesciano, cercare di mantenere e di tenere da parte le questioni politiche, ideologiche, eccetera. E ci siamo riusciti a mettere insieme persone che normalmente si scontrano. Sì. Ecco. E con le ONG, appunto una società civile che ha formato queste ONG, mettendo insieme le varie opposizioni basate in Siria o basate fuori dalla Siria. Chiarissimo. Grazie mille. Cristina Menegazzi, sì, del progetto UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale in Siria, era con noi da Beirut. Dottoressa Menegazzi, buona serata, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Abbiamo chiacchierato anche con il professor Franco D'Agostino, che è docente di assiriologia all'Università di Roma e dirige la missione archeologica ad Abut Beira in Iraq. Lo ascoltiamo insieme. Buongiorno professor D'Agostino. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, come sentiva, insomma, sì, credo che concorderà con me che cancellare la storia significa cancellare la memoria e quindi si va a incidere sull'identità di popoli e nazioni, questo al di là di ogni facile retorica. Certo. Posso partire con una provocazione, professore? Prego. Allora, l'ospite che la precedeva dell'UNESCO che si occupa di Siria, sì, anche a lei dicevo, dottoressa Menegazzi, insomma, in un momento in cui ci sono centinaia di migliaia di morti, è difficile forse anche far passare il messaggio che ci stiamo occupando di monumenti, ci stiamo occupando di danze tradizionali, ci stiamo occupando di manoscritti, no? Perché alla fine, quando il sangue è, ai noi, ancora caldo, è lì che sgorga sul terreno. Certo, è difficile distrarsi da quella ragione. Come fate voi, dirigendo una missione archeologica in cui siete fortemente impegnati, a bilanciare questa... No, questa... Guardi, in realtà mi permetta di dire è relativamente semplice, anzi direi addirittura molto semplice. Noi stiamo facendo un servizio per loro e loro non solo ne hanno coscienza, ma ne hanno, come dire, un assoluto entusiasmo. Io sono il direttore di una missione, come lei ricordava, ad Abut Beira, al sud dell'Iraq, a 7 km a sud di Nassiriya, e sono il direttore di una missione italo-irachena, io insieme alla mia assistente Licia Romano, sempre della Sapienza. Sì. Siamo lì a lavorare per loro, lavoro insieme a loro, loro lavorano quotidianamente con noi per 3 mesi all'anno e sono loro che in qualche modo ci hanno voluto lì, che ci supportano lì, eccetera. Quindi direi che forse la soluzione più semplice per evitare di pensare al dramma che lei descriveva è quella di capire che stiamo lavorando veramente per loro e che in fondo c'è un Iraq che vuole assolutamente mantenere il suo patrimonio, che è orgoglioso di sentire quanto vecchio è il suo paese, che risale al 12.000 avanti Cristo, insomma il neolitico nasce praticamente in Iraq. Quindi insomma direi che forse questa è la risposta che più mi sento di dare, sì, il fatto che sono loro a spingerci ad andare avanti in questa direzione. Sì. E questo insomma denota anche una grande consapevolezza, no, della propria storia. Assolutamente, questa è la verità. Loro avevano, guardi che insomma l'Iraq oggi è un paese in cui tutti gli intellettuali se ne sono andati, difficilmente riescono a tornare, non hanno facilità, eccetera, eccetera, per via della situazione che lei aveva descritto, insomma, e altre. Ma l'Iraq aveva una classe colta, una classe di archeologi che era forse la migliore del Medio Oriente, insieme appunto anche alla Siria, onestamente. Sì. Questo anche perché sia la Siria che l'Iraq hanno un patrimonio insieme all'Egitto straordinario che appunto loro difendevano in ogni modo. La legge di protezione del territorio iracheno è basata su quella italiana praticamente, quindi un soprintendente ha il potere di bloccare qualsiasi attività rischi di danneggiare un sito archeologico o comunque un bene culturale. Sì. Quindi in realtà loro avevano molta coscienza della potenza che questo rappresenta agli occhi del mondo e che ed è, mi permetta di dire una banalità, sì, un'arma nelle loro armi infinitamente più grandi di qualsiasi altra arma possano tenere in mano in questo momento. Professor D'Agostino, descriviamo la missione archeologica che voi state conducendo in quella località. È una missione archeologica che ormai è alla quarta missione, cioè il 3 settembre dovremmo partire, insomma abbiamo già organizzato e sembra che per quanto riguarda la possibilità di andare non ci siano difficoltà. Siamo ovviamente in contatto con l'unità di crisi del Ministero degli Esteri per avere sempre aggiornamenti sulla situazione sul territorio. La missione è lo scavo che noi stiamo portando avanti, è una città di 43 ettari a 7 km a sud di Nassiriya e 16 km a est di Ur, di cui era una piccola città satellite, comunque una città di media grandezza satellite. Era una città mai scavata prima, che non presenta tracce di saccheggio, il saccheggio che è avvenuto in Iraq essenzialmente tra il 2003 e il 2007, e per quanto abbiamo potuto scavare in questo periodo, abbiamo potuto vedere storicamente, risale a un periodo tra il 2700 e il 2200, questo dovrebbe essere il Floruit, il periodo di maggiore vigore, forza, sì, insomma, della città, un periodo che noi chiamiamo tra il proto-dinastico secondo e la terza dinastia di Ur, comunque la fine della dinastia di Akkad, questa non c'entra, però sì, per dire, è un sito quindi del terzo millennio sumerico, come noi ci aspettiamo in quelle aree, e abbiamo una missione che vive ad Ur, proprio all'interno della città archeologica di Ur e della casa che ci offre la soprintendenza locale. Insomma, sì, questa è la nostra missione, siamo una piccola missione, questo anche per le difficoltà di muoversi sul territorio, siamo seguiti da quella che loro chiamano la polizia dell'archeologia, cioè dei poliziotti che ci aiutano a passare i checkpoint, stanno con noi tutto il tempo che noi scaviamo, dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 3, alle 4 quando andiamo via, sì, e ci supportano in ogni maniera. Devo dire che questo è anche uno sforzo che sta facendo l'Iraq per riprendere la via della normalizzazione, direi. Insomma, forse lo rappresentiamo molto bene proprio noi con questa collaborazione insieme a loro, direi. Sì. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Siamo di nuovo in onda con il meglio di Nessun Luogo Lontano per ripercorrere quel viaggio che abbiamo fatto alla scoperta del patrimonio culturale in pericolo nelle zone di crisi del mondo. E torniamo ad ascoltare la voce del professor Franco D'Agostino, insegna assiriologia all'Università di Roma, che ci ha raccontato della missione archeologica ad Abu Dhabi in Iraq, di cui è direttore. Volevo fare una domanda curiosa, perché insomma lei fuori onda mi svelava il fatto che a dispetto della nomea e insomma della letteratura che vuole il drone perfetta, formidabile, invisibile, arma bellica, in realtà lo usate anche voi. Sì, mi permetto una piccola premessa. Sì. Quando noi, a causa proprio del lavoro che abbiamo fatto e del fatto che viviamo nella città di Ur e anche degli ottimi rapporti che abbiamo con la soprintendenza locale, ci è stato chiesto in qualche modo di intervenire su Ur per fare dei progetti di consolidamento dei monumenti più importanti della città, che è una città importantissima, tra l'altro è l'unica città sumerica citata nella Bibbia, da cui Abramo, il patriarca, partì per il suo viaggio verso Canaan, eccetera, quindi ha una tradizione anche un imposto anche nella tradizione occidentale, e abbiamo cominciato con fondi della cooperazione del Ministero degli Esteri italiano e dell'ambasciata italiana a Baghdad a lavorare appunto a creare questi progetti, e ne abbiamo fatto già due, uno è stato un piccolo tempio e l'altro quello che citava lei, cioè abbiamo utilizzato un drone, questa volta appunto non per motivi militari come erano abituati nella zona, in quanto Ur si trova a ridosso di una base militare che era occupata dagli americani durante il periodo tra il 2003 e il 2011, ma l'abbiamo utilizzata a fini completamente pacifici, abbiamo creato una mappa che è un ortofoto in realtà, cioè una mappa diciamo sofisticata di tutta la città di Ur, ed è la prima volta che questa attività si fa in Iraq, quindi diciamo siamo stati molto orgogliosi di poter cominciare noi questo nuovo trend e utilizzare un'arma virgolette per scopi assolutamente pacifici. Sì, insomma la tecnologia al servizio anche appunto della salvaguardia. Assolutamente, l'archeologia ha bisogno di moltissime competenze, certo, quindi più, insomma, è un'attività che ha bisogno di non solo di archeologi, ma ha bisogno anche di antropologi e di esperti di ossa animali, di piante, di materiali, eccetera, eccetera. Quindi guidare una missione è un'esperienza entusiasmante, mi credo, insomma, perché uno ha contatto con una serie infinita di persone che fanno, o di ragazzi, poi insegna all'università, sì, che hanno interessi, per esempio, sulle tracce di uso, sulla ceramica, che hanno interessi di analizzare i pavimenti per capire che cosa si poteva fare, qual era l'attività all'interno di quel vano, eccetera, eccetera. C'è tutto un mondo dietro, e devo dire che gli iracheni ci seguono molto su questa nuova, diciamo, archeologia che loro in fondo non conoscevano. Dal suo osservatorio iracheno, vicino a Nassiriya, quindi nel sud, riesce ad avere una dimensione, a dare un giudizio su quello che sta accadendo, l'avanzata dell'ISIS, la crisi politica, quanto sta impattando in generale sul patrimonio culturale iracheno? Riesce a darci un'idea? Sì, appunto, la mia non è una risposta politica, perché la storia dell'Iraq è la loro e loro debbono mettersi d'accordo tra di loro, non c'è un elemento esterno che potrà mai aiutarli, diciamo, devono veramente trovare la via per conto loro, e mi credo ne sono assolutamente in grado. Però dal punto di vista dei beni culturali, credo che la situazione sia abbastanza drammatica, le ripeto, sempre in sottordine rispetto alla situazione umanitaria, certo, che lei descriveva prima, ma senz'altro drammatica. Veda, la filosofia, o meglio ancora l'ideologia religiosa di IS o ISIS, adesso non si sa più come chiamare, comunque dello Stato Islamico, prevede l'arte come un elemento di disturbo nel rapporto tra l'uomo e Dio, proprio perché l'arte, l'artista soprattutto, è una figura che cerca nella loro ottica di imitare la creazione divina, quindi pecca di tracotanza, è il peccato più grave che nel mondo musulmano un uomo possa fare. Da questa considerazione, che è molto minoritaria nella tradizione musulmana, loro traggono conclusioni che li portano poi a fare quello che fanno. Mi permetta però di dire che oltre questo interesse, diciamo, questa motivazione ideologica, c'è dietro anche un interesse economico molto preciso, in quanto ISIS finanzia la sua guerra con fondi esterni, ma appunto questo non discutiamo, poi con la vendita del petrolio e del gas nelle zone che ha conquistato, e il terzo importante modo di finanziare la propria guerra è proprio la vendita dei beni culturali dei posti che hanno conquistato. Loro li depredano proprio, quindi non soltanto li distruggono, ma li depredano proprio per poter venderli ai mercati occidentali, perché certo non nel mercato locale, e così finanziare la loro guerra. Quindi i beni culturali sono proprio ostaggio di questa mentalità. Era così anche tra il 2003 e il 2007 nel sud dell'Iraq, d'altronde. Chiarissimo. Ed è insomma il contraltare di questa crisi irachena: da un lato vi siano progetti come i vostri che tendono a salvaguardare, dall'altro l'avanzata di ISIS che riesce ad accaparrarsi ogni tipo di risorsa sul territorio per poi appunto finanziare questo califfato. Questo è uno dei drammi dei beni culturali, è questo, che non sono solo neutri nell'ottica dei jihadisti, ma sono proprio un valore d'uso, insomma, che loro sono un valore d'uso molto importante. È chiarissimo. Comunque se mi posso permettere, certo, noi abbiamo proprio oggi avuto, io e un mio collega che si chiama Marco Ramazzotti, insegna con me alla Sapienza di Roma, abbiamo avuto la risposta per una richiesta che avevamo fatto al Ministero del Turismo e dell'Archeologia dell'Iraq, e ci hanno attribuito un nuovo scavo nella città di Eridu, che è una importantissima città dell'area, che è antichissima, è la prima città sumerica della zona, addirittura c'è un testo sumerico che dice che la regalità, una volta scesa dal cielo, andò proprio ad Eridu come prima città. E proprio perché anche per Eridu all'inizio di quest'anno è stata richiesta l'immissione all'interno della lista dei siti protetti dall'UNESCO. Quindi l'Italia in questo momento e la Sapienza, direi, stanno proprio lavorando gomito a gomito con gli iracheni e con l'UNESCO per cercare di proteggere, perché questo riconoscimento UNESCO potrebbe davvero aiutare l'Iraq in qualche maniera a far sì che il mondo si renda conto dell'importanza del patrimonio iracheno, certo, e probabilmente a far sì che gli stessi governanti iracheni diano un credito importante a questa parte della loro della loro storia, della loro nazione, insomma, sì, di quello che hanno tra le mani. Questo, sì. Professor D'Agostino, in le ultime due domande la prego di essere sintetico perché il tempo inizia a essere tiranno. La prima è: si può quantificare una perdita in termini economici, la perdita di un patrimonio culturale? È possibile monetizzarlo, fatto salvo di non vendere? Insomma, Però, per esempio, le faccio un piccolo esempio. Sì. È stato venduto proprio due giorni fa in un'asta, in Inghilterra, mi pare, un piccolo oggetto che è un cilindro iscritto di Nabucodonosor II, ed è stato venduto per $605,000, ed è un oggetto, ripeto, di 15 centimetri di altezza, insomma del peso di 1,5 kg. Questo è il parametro di valore degli oggetti che si possono fare. Ci possono fare cose infinitamente più ricche di questo, però viene a valutare, specie per me che faccio l'archeologo e lo storico del mondo antico, valutare in termini monetari è molto difficile. Però per darle un'idea le ho fatto quell'esempio che mi sembra un po', insomma, renda bene l'idea di quello che può esserci dietro, insomma. Assolutamente sì. L'ultimissima domanda: al momento il vostro lavoro non è intaccato dalla crisi irachena? Guardi, in questo momento no, perché di fatto l'Iraq dal punto di vista delle forze in campo sul territorio non è cambiato affatto rispetto a anni fa, o rispetto all'inizio dell'anno in ogni caso. Cioè c'è un Kurdistan sotto controllo curdo, c'è un centro che è sempre stato riottoso perché è il punto in cui sunniti e sciiti, soprattutto sì, Al-Qaeda e le sue varie forme che ha preso, si trovano proprio lì, e poi c'è un sud completamente sciita. Quindi di fatto sul territorio non è cambiato molto. Quello che è cambiato, diciamo, è stato il problema di Baghdad, cioè il fatto che ISIS ha cominciato, non casualmente, tutta questa sua attività nel momento di maggior debolezza del sistema politico iracheno, cioè nel momento del post-elezioni, quando stavano decidendo che cosa fare. Sì. E come si vede, questo è il vero problema, non certo ISIS. Non so se mi sono spiegato, è chiarissimo, credo che ISIS, insomma, sia un problema, ma forse è un problema meno grave di quello che appare, diciamo, se non per motivi umanitari, mi raccomando, quello certo, è fatto sempre salvo quell'aspetto lì. Però dal punto di vista politico probabilmente non è il vero problema dell'Iraq, che si sta invece, il cui futuro se lo stanno giocando adesso senz'altro a Baghdad. Certo, per cui insomma, se devo identificare un nemico, qualcuno che potrebbe farvi saltare sulla sedia, è l'instabilità politica del paese. È l'instabilità politica, questo sì. A miei colleghi che lavorano nella zona del Kurdistan hanno problemi più grandi in questo momento, ovviamente. Poi le dico, noi abbiamo sempre l'ambasciata come punto di riferimento, quindi a ridosso della partenza sentiremo che cosa ci consigliano e poi decideremo sul da farsi, insomma. Grazie mille, professor Franco Agostino, assiriologo, appassionato, impegnato in prima linea, tra virgolette ovviamente, in Iraq per salvaguardare parte del patrimonio di questo meraviglioso paese. Buona serata, buon lavoro, professore. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Notre vie a dépend beaucoup. Think that we have a problem. A British company is exploring for oil. My work is to manage the park, to ensure that it's protected. Any oil-related activities are illegal. All the armed groups will want their slice of the cake. I think they're playing with fire. It's the money that fuels everything. Plain God. This isn't a war yet, but it could be soon. Ça va parler ici. The danger is near us. The Congolese army is fleeing. E quello che sentite è un condensato dell'incredibile storia del Virunga Park. Siamo in Congo, è il parco forse più importante al mondo perché è quello con la più alta varietà di specie presenti nel suo territorio. Il trailer che avete sentito è il trailer di un film, Virunga, diretto da Orlando Van Einsiedel, un film pluripremiato e che racconta le vicende, la lotte e la vita quotidiana dei Rangers del Virunga guidati da Emmanuel de Merod, che è un coraggioso direttore del parco, che fra l'altro ho incontrato un anno e mezzo fa, pochi mesi prima dell'attentato. Lui si stava recando a Goma, capitale del Nord Kivu, per denunciare un rapporto, per rilasciare, pubblicare un rapporto secondo il quale la britannica Soco stava compiendo esplorazioni assolutamente dannose e nocive per il parco. Pensate, lui era 20 anni che era lì, ha attraversato guerre, conflitti, 40 gruppi armati che imperversano in Kivu, non era mai successo nulla. Ebbene, proprio mentre andava a Goma a denunciare tutto ciò, un attacco al suo convoglio ed è stato ferito. Fortunatamente quella vicenda lì è andata bene. L'altra vicenda che è andata bene perché il WWF ce l'ha fatta, la SOCO da alcuni mesi ha abbandonato i suoi propositi di esplorazione, insomma, in queste storie di nessun luogo lontano, di salvaguardia, questa diciamo che per il momento è quasi finita bene, quasi, perché purtroppo il Norchivu rimane una zona estremamente instabile, una zona in cui ancora il governo centrale non è riuscito a risolvere i problemi dei tanti gruppi armati e dei bracconieri che quotidianamente mettono a repentaglio questo gigantesco e fantastico gioiello. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Questo approfondimento tutto dedicato alle opere d'arte nelle zone di crisi, ascoltando l'intervento del fotografo Marco Di Lauro, che ha immortalato i manoscritti di Timbuktu sfuggiti ai roghi appiccati dai miliziani jihadisti grazie agli sforzi della popolazione maliana. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Marco Di Lauro. Ciao, buonasera, ti ringrazio. Allora Marco, hai fatto questo viaggio a Timbuktu, non eri da solo perché eri con un giornalista? No, infatti ero con Patrick Sims, che è un giornalista americano con cui lavoro da molti anni. Abbiamo lavorato spesso su temi legati alla salvaguardia del patrimonio culturale o all'ambiente, temi comunque importanti in posti in conflitto e di solito appunto dopo la fine di questi dei conflitti. Certo. Il reportage è stato pubblicato in Italia da Internazionale con un titolo che mi sembra emblematico, perché il titolo è I veri ribelli di Timbuktu, ossia non i miliziani jihadisti che appunto minacciavano tutto quel patrimonio meraviglioso di Timbuktu e del nord del Mali, ma chi con sotterfugi, con astuzie, con malizia è riuscito a sottrarre un sacco di manoscritti dalle mani di questi predoni. Sì, infatti devo dire che l'opera straordinaria della popolazione di Timbuktu ha permesso la salvaguardia di migliaia e migliaia di manoscritti. Spesso in un conflitto, oltre ai morti veri e propri, quelli che ne fanno le spese poi sono la perdita di identità della popolazione locale e con la distruzione del suo patrimonio culturale, che può essere appunto i manoscritti a Timbuktu, come Buddha, Bamiyan, come ben si sa, sì. O anche la completa esposizione dei musei a Baghdad o a Kabul durante le guerre che ci sono state. E questi sono temi di cui spesso non si parla, perché comunque di fronte alla perdita di vite umane questi argomenti passano in secondo piano. Solo che nel lungo termine sono altrettanto importanti, in quanto appunto distruggono l'identità di un popolo. Certo, la Timbuktu che tu hai fotografato è una Timbuktu, beh innanzitutto dobbiamo descriverla, no? Siamo nel nord del Mali, è un territorio di per sé che non è proprio ospitalissimo in quella zona lì, e che popolazione hai trovato? Tu questo viaggio l'hai fatto alcuni mesi fa, direi, no? Questo viaggio l'ho fatto ad agosto del 2013. Quindi esattamente un anno fa. Ho trovato una popolazione che mi ha stupito e sorpreso, in quanto nonostante fossi stato in quasi tutta l'Africa non ero mai stato in Mali. E ho trovato una popolazione comunque molto, molto calda, cioè mi ha accolto con stupore e sorpresa di fronte a quello che era il tema che andavamo ad affrontare, ad analizzare, appunto come questi manoscritti erano stati salvati. Cioè, l'articolo verte principalmente su esattamente come sono stati portati via. Ecco, abbiamo scoperto. Raccontaci qualche aneddoto, qualche storia in particolare che ti ha colpito. Dobbiamo ricordare che fu nel gennaio del 2013 che l'azione degli jihadisti finì alla ribalta, perché entrando a Timbuktu entrarono nella biblioteca più grande della città e sostanzialmente diedero, appiccarono il fuoco a moltissimi manoscritti. Come sono stati salvati? Quasi Marco Di Lauro. 1700 manoscritti andarono bruciati, se ricordo bene il numero dell'articolo. Sono stati salvati in moltissimi modi diversi, a dorso d'asino, in piroga, in auto, come l'articolo descrive appunto, alcuni dei bibliotecari hanno trafugato addirittura i manoscritti dentro i loro vestiti, dentro le loro mutande, davanti ai jihadisti uno alla volta. Quando poi la situazione è peggiorata, ne sono stati portati fuori molti di più rispetto a quelli iniziali. Alla fine su quasi un patrimonio di migliaia, di centinaia di migliaia di manoscritti. Purtroppo sono andati persi 4.000 manoscritti, circa 4.600 manoscritti, ma comunque una parte infinitesimale rispetto al danno che sarebbe potuto accadere se tutti i manoscritti fossero caduti nelle mani dei jihadisti. Certo. Com'è per un fotografo lavorare con le immagini su un patrimonio come questo? Ti senti in qualche modo di contribuire alla, come si può dire, no, alla resistenza, no, con le immagini? Tu vai a fotografare le mura di Ginevra, vai a fotografare Timbuktu, quel manoscritto, quel personaggio che ha salvato quel manoscritto. C'è anche un po' la soddisfazione del consacrare quel momento di salvifico rispetto alla cultura del paese? Sicuramente, tra l'altro è un momento molto diverso da quello che abitualmente faccio, che è appunto fotografare conflitti nel momento in cui avvengono e fotografare persone fisiche che soffrono. In questo caso questa è una storia in cui la sofferenza era data soltanto dal rammarico delle persone coinvolte di non essere riuscito a salvare tutti questi manoscritti. La cosa che mi ha stupito è che ho incontrato vecchi maliani analfabeti che soffrivano e piangevano per la perdita di questi manoscritti, pur non sapendo leggere, pur non sapendo neanche che cosa ci fosse scritto in questi manoscritti. Ma in realtà i manoscritti di Timbuktu, per quanto forse nell'accezione comune si pensa che alcune zone dell'Africa siano del tutto prive di una cultura millenaria o di un interesse da parte della popolazione locale per questa cultura, rappresentano un patrimonio per l'umanità talmente importante che qualunque cittadino del Mali se ne rende conto. E moltissima gente ha sofferto e ha corso rischi, ha rischiato la propria vita per portare fuori questi manoscritti. Certo. L'ultimissima domanda, come fotografo, qual è l'immagine che ti è rimasta di questo tuo viaggio, di questa tua esperienza a Timbuktu, a caccia di questi? Lo ripeto, era molto bello, molto emblematico il titolo, I veri ribelli di Timbuktu. C'è un viso su tutti, una situazione su tutti, una storia su tutte che vuoi restituirci in slogan, come se fosse una fotografia per radio, insomma. Ma sicuramente i manoscritti stessi, non avevo mai visto dei manoscritti che parlavano di erbe medicinali, di educazione sessuale, di religione, di politica. Mi sono rimaste impresse le parole in francese usate da queste persone che hanno salvato questi manoscritti, nel momento in cui mi descrivevano il contenuto dei manoscritti stessi. Non usavano la parola, per esempio, questo manoscritto parla di politica, questo manoscritto parla di buona politica. Cioè si sentiva nelle loro parole che quei manoscritti erano la testimonianza della loro identità e di un modo di vivere diverso da quello attuale in molti paesi africani. E questo è forse, insomma, il termometro più genuino, no? della consapevolezza, della coscienza di un popolo che, quando ha per le mani la propria ricchezza, la propria storia, fa di tutto per salvaguardarla anche di fronte alla, passatemi il termine, alla follia distruttrice di milizie come quelle che ancora nel nord, profondo nord del Mali, mettono a repentaglio la stabilità del paese. Grazie mille a Marco Di Lauro, lo ricordo. Ringrazio. Pluripremiato fotografo, se volete vedere i suoi lavori vi consiglio di farlo, marcodilauro.com. Grazie Marco, buona serata e buon lavoro. E questa è l'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Grazie per essere stati con me e avermi seguito in questo ennesimo viaggio. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Nessun luogo è lontano.